Disco Della Settimana. Velocità spaventa anche gli alberi che mi guardano passare. La mia velocità non ha bisogno di essere veloce, ammesso che ne sia capace. Velocità spaventato anche te, fino a farti allontanare, così l'uomo più lento del mondo ha spaventato il mondo con la velocità. Del mondo ha spaventato il mondo con la velocità. Che non capiranno mai cos'è, daranno ancora un altro nome inutile. Tu solamente mi potrai raggiungere. Velocità ha spaventato gli alberi, ferma solo ad aspettare te. Del mondo ha spaventato il mondo con la velocità. L'uomo più lento del mondo ha spaventato il mondo con la velocità. Così l'uomo più lento del mondo ha spaventato il mondo con la velocità. Questo brano, cara Erika e cari ascoltatori tutti, si chiamava La mia velocità ed è il primo brano che abbiamo deciso di estrarre dal disco della settimana che vi presentiamo oggi, che è lunedì 2 novembre 2020. Ecco, questo brano fa parte appunto di un album che si chiama Tilt, che è l'ultimo album di Pino Marino. Quest'album è uscito il 30 ottobre, quindi pochissimi giorni fa. Abbiamo avuto il weekend per ascoltarlo e per presentarvelo anche. Io devo dire la verità, Pino Marino non lo conoscevo, e poi quando ci siamo informati invece abbiamo scoperto che questo suo album celebra il ventennio della sua attività musicale, quindi in realtà è effettivamente effettivamente in giro da tantissimo tempo. È un album molto bello, molto variegato, dove i brani che sono contenuti, insomma, sono anche abbastanza diversi tra loro e hanno anche interpreti diversi. Ma soprattutto la spiegazione di quest'album io la lascio a Mauro, perché è un po' una cosa che io non ho assolutamente capito. Quindi devo dire la verità, l'album mi è piaciuto tantissimo, ma la spiegazione io, boh, Mauro, spiegamelo tu. Beh, è un po' complessa la spiegazione che ci dà lui. Fondamentalmente, Tilt che cos'è? Tilt c'è nei flipper, no? Quando te lo smuovi perché la pallina è incastrata, lui si blocca e va in tilt. Comunque sentiamo come ce lo spiega Pino Marino. È meglio, va. Lui dice: quando si alterano e si infrangono la posizione e l'equilibrio di un flipper, il suo stabilizzatore interno va in protezione, fa contatto e toglie la corrente al gioco, generando il tilt. Che è un po' quello che cercavo di spiegare io. Noi siamo giunti a un tilt epocale, sociale e culturale. Siamo evidentemente ad un bivio collettivo di rottura, e ogni bivio di questa natura implica una scelta che non preveda il solo singolo aumentato, ovvero il guasto morale che ci accomuna in questa esasperata propensione al vantaggio relativo e disposizione del sé come termine di paragone e riferimento per il tutto. O si riprende il gioco avendo cura di altre necessarie modalità, oppure si accetta la fine della corsa procurata dalle stesse modalità da cui è stata generata. Allora, io continuavo a non averci capito niente, ma a questo punto, per capirlo meglio quest'album, io continuerei ad ascoltare dei brani che sono appunto contenuti in Tilt. A questo punto ascolterei il brano numero 1, che si chiama Calcutta. Dilaniata come un cane di famiglia, sotto gli occhi del padre, ad un metro dalla figlia, senza fuoco né fiamma, né barlume di scintilla. Come un sordo che non sente più la sveglia, questo capitolo sbagliato ti somiglia. Come le chiese, come la fede, come via Giulia, di notte quando nessuno più la vede. L'invasione della nebbia da nord, la consegna dei giornali e il fumo nero di un furgone della Ford. Stelle basse, luci fioche in Campidoglio, una testuggine di scarti conservati con orgoglio. Come le statue, i gatti neri, l'incapacità di avere liberi pensieri con il cuore a spicchio taglio. Altro che streghe, siamo le piaghe avute in dote da un ruggito di sbadiglio. Vuole essere lievito sia, aiutiamolo in camera sua, ma si risvegli la caposala dal neo di una cicala e alle lucciole passate da Roma, ai pidocchi che ci vivono in poltrona. Qualcuno ricordi che Calcutta rimane anche per oggi la capitale indipendente del Bengala occidentale. Inferno e paradiso, stessi lampioni, la premura dei pretoriani ferma le vespe e lascia andare i calabroni. Nelle botteghe della paura nascono figli in miniatura, leva le costole, resta in piedi un'armatura e una vena d'acqua nera gira intorno all'ospedale dopo l'ultima sirena. Ci guarda e se ne va. Chi vuole essere lievito sia, aiutiamolo in camera sua, ma si risvegli la caposala dal neon di una cicala e alle lucciole passate da Roma, ai pidocchi che ci vivono in poltrona. Qualcuno ricordi che Calcutta rimane che per oggi la capitale indipendente del Bengala occidentale. Continuiamo allora a parlare di Tilt, questo album che vi stiamo presentando oggi, uscito pochissimi giorni fa, che contiene 10 tracce. In ognuna delle 10 tracce, ci dice Pino Marino, affiorano varie tipologie di Tilt, e da ognuna delle 10 tracce si ha modo anche di uscire, costruendo un dopo Tilt oppure praticando a oltranza il cortocircuito che continua a generarli. Quindi vai avanti di Tilt uno dietro l'altra, oppure crei un post, giusto? La prima delle due ipotesi, quindi costruire un dopo tilt, è una soluzione che comporta responsabilità per tutti i ruoli, artistici e non artistici, esposti o non a vista, nessuno escluso. La seconda è una non soluzione che produce rimpassi di genere posticcio, quindi l'immobilismo di fatto. Continua a essere complicato, ma niente, noi continuiamo a scoprirlo ascoltando traccia dopo traccia di quest'album. E a questo punto io ti proporrei la traccia numero 3. Questa traccia si chiama Caterina Volentieri. Volentieri. Ok, ascoltiamolo. Caterina, gli occhi tristi, dico a te che non li hai visti, poggiato al tuo bancone, anonimo anche il bar. Caterina, volentieri, porta giù i capelli neri, li raccoglie solo quando di ascoltarti non le va. Caterina, volentieri, porta giù i capelli neri, li riavvolge con le mani, chiude gli occhi, prende gli occhi e se ne va. Sa dirti per davvero, non sa sciogliere il mistero, sapere cosa manchi e cosa invece basterà. Affacciata la finestra, guarda il bello che non basta, però quello che la lega è ciò che non le piace più. Come il giallo di Ginestra, aggrappata ad un vulcano, sta bruciando sul divano. E il giallo non diventa blu. Caterina è il suo dovere, non deludere un mestiere, imparato da bambina e adesso la deluderà. Come perdere l'elastico che tiene tutto a posto, con i dubbi sulle spalle. Caterina capirà. Caterina, gli occhi tristi, dico a te che non li hai visti, poggiato al tuo bancone, anonimo anche il bar. Caterina, volentieri, porta giù i capelli neri, li raccoglie solo quando di ascoltarti non le va. Caterina, volentieri, porta giù i capelli neri, li riavvolge con le mani, chiude gli occhi, prende gli occhi e se ne va. Ok, allora adesso andiamo su qualcosa di più semplice. Pino Marino è un artista che suona da 20 anni. Tilt è l'album uscito il 30 ottobre che celebra il ventennio della sua attività musicale. Ecco, parliamo di lui, facciamo la bio, che questa è più semplice. Ecco, attività musicale come solista in realtà, perché Tilt è il quinto album di Pino Marino, ma lui prima del 2000 già era attivo come musicista, come compositore, come produttore e come tante cose. Partiamo un po', facciamo un po' a spizzichi e bocconi la sua carriera musicale. Ecco, nel 95 vince il premio Musicultura Città di Recanati insieme al trio Piste d'Api, quindi qui ancora lavorava con altri. Nel 96 la sua prima apparizione a Sanremo, come autore però, quindi non va sul palco direttamente, ma come autore di un brano in collaborazione con Maurizio Fabrizio. Arriva al 97, nel 97 dice bon, basta, adesso io voglio vivere di musica, e abbandona la sua precedente attività, che in quel momento era legata al restauro ai pianoforti, e decide di lavorare ininterrottamente come autore però per altri interpreti della canzone italiana, e inizia a lavorare in maniera un pochino più intensa, e le prime collaborazioni sono con Arnaldo Vacca e Marco Siniscalco, e poi inizia a lavorare con Pino Pecorelli e Fabrizio Fattepietro, che ancora oggi sono in attività. Dal 2000 appunto prende il via la sua carriera discografica, cioè quella proprio a suo nome, Pino Marino. Nel 2000 esce Dispari, il primo album. Nel 2003 Non bastano i fiori, entrambi con la Noon Entertainment di Stefano Senardi. Nel 2005 esce invece Acqua, Luce e Gas, che è stranissimo come titolo per un album. Probabilmente doveva pagare le bollette in quel periodo, anche Pino Marino, insomma, tutti dobbiamo pagarle le bollette. Dopo aver fondato due collettivi musicali, escono lavori discografici con questi collettivi, appunto, il collettivo Angelo Mai, che è molto attivo e molto famoso a Roma, nel 2008, e il collettivo Dal Pane, nel 2011. Invece, il suo quarto disco a suo nome è Capolavoro ed è uscito nel 2015. In realtà poi, a parte la sua attività musicale con gli album che vi abbiamo appena raccontato, ha collaborato davvero con tantissimi altri colleghi. Infatti la sua attività come autore è veramente molto ricca. In particolare ha collaborato con Nicolò Fabi, con Nicky Nicolai e Stefano Di Battista Jazz Quartet, poi anche in realtà con tantissimi altri, con Daniele Silvestri, con Manuel Agnelli e tantissimi, insomma, colleghi a livello nazionale. Non solo però, oltre a scrivere e a fare la sua attività autoriale per grandi artisti, artisti molto conosciuti, lavora anche con dei nuovi artisti, delle nuove uscite, diciamo. E ad esempio c'è Agnese Valle e Carlo Valente, che sono due artisti giovani che sono esordienti, insomma, e hanno collaborato appunto con Pino Marino. Aggiungiamo pure che è anche autore e sceneggiatore di alcuni spettacoli teatrali, anche insieme a Daniele Silvestri, peraltro, e questa è una cosa molto interessante. Ok, a questo punto, dopo questa biografia molto molto ricca, perché appunto ricordiamo che Pino Marino è in attività da più di 20 anni, direi che possiamo continuare a scoprire le tracce di Tilt. Quest'album è uscito, ricordiamo, il 30 ottobre, pochissimi giorni fa, e contiene 10 tracce. Quale ascoltiamo adesso, Mauro? Adesso vi farei ascoltare appunto il brano che dà il titolo all'album, cioè l'ultima canzone, che si intitola Tilt e che vede anche l'interpretazione di Vinicio Marchioni. Il mio paese ha perso gli occhi. Il mio paese non ci vede. Il mio paese ha 100 occhi, quindi allora ormai non crede. Il mio paese senza volto ha consumato le parole ed ha comunque 1000 bocche da riempire, ma non esiste cibo per sfamare chi presume le risposte e domande non ne vuole. E Caterina ha il suo dovere. Non deludere è un mestiere imparato da bambina. E adesso la deluderà, come perdere l'elastico che tiene tutto a posto, con i dubbi sciolti sulle spalle, capirà che gli orizzonti di una strada sulle spalle delle antenne non sostengono l'immensità del cielo e le pareti di una stanza non trattengono la vanità del falso quando vuol sembrarti vero. Se amore è una parola, disappunto è una parola, cultura è una signora con una scarpa sola e un semaforo lampeggia giallo nel deserto perché il verde fa paura e il rosso è la coscienza che non ho provato ancora perché ho dimenticato, perché non ho mai scelto, perché ho semplificato a distanza ferroviaria ciò che non riconosco dalle idee nella mia stanza a cui non ho più dato aria. La libertà non è restare soli o avere tempo, è la volontà dei fatti che lega l'edera al cemento e la parola che non ha radici fa grammatica nel vento. La libertà non porta il nome di nessuno, nessuno l'ha più avuta, nessuno mai l'avrà, anche se in molti l'hanno presa e consumata in processione ai fari spenti della loro disumana verità. Anche se i giorni l'hanno offesa, lei ci guarda senza età tornare a casa nella nostra discutibile realtà. Che nelle botteghe della paura nascono figli in miniatura, conservati con orgoglio come le statue, i gatti neri e l'incapacità di avere liberi pensieri. Ed è già passato lo spavento nucleare e impoverito l'uranio da solo in fondo al mare. Io non conoscevo il tempo che avrei usato solo per lasciarti andare. La mia velocità non ha bisogno di essere veloce, ammesso che ne sia capace. Ma io sono rimasto per vedere quant'è che dura quello che ci ho messo io dentro a ste mura. E a me rimane aver capito che solo amore dato è amore avuto. Siamo verso la fine di questo nostro disco della settimana. Vi ricordiamo che questa settimana vi abbiamo parlato di Tilt, che è il quinto album di Pino Marino, uscito il 30 ottobre. E riguardo questo disco possiamo dire che hanno partecipato anche tanti altri artisti, perché effettivamente Pino Marino è molto conosciuto in ambito musicale, soprattutto perché ha fatto tantissime collaborazioni. Quindi, come dicevamo prima, ha lavorato come autore, come sceneggiatore, come regista, insomma, ha lavorato davvero tantissimo in questi ambito. Ecco, allora ci sono alcuni artisti che hanno preso parte a Tilt. Oltre chiaramente a Pino Marino, poi c'è Pino Pecorelli, che suona il basso e il contrabbasso in tutte le tracce, Fabrizio Frate Pietro, che suona batteria, vibrafono e tutto quello che è percussioni, ma in più ci sono vari altri musicisti, come Giovanna Famulari al violoncello nella traccia numero 9, Fernando Pantini alle chitarre in un po' di tracce, Vincenzo Vicario al sax, Agnese Valle ai cori, backing vocals nella traccia numero 2 e Roberto Angelini alla steel guitar nella traccia numero 4 che abbiamo ascoltato in apertura, La mia velocità. Esatto, però oltre a loro ci sono anche degli interpreti che danno la voce a alcune canzoni, ad esempio per Roma Bella c'è Tosca che canta appunto il testo di questa bellissima canzone, poi invece Ginevra Di Marco canta Maddalena, interpreta il brano Maddalena e Vinicio Marchioni invece interpreta la traccia che dà proprio il titolo a quest'album, a Tilt. Beh, allora prima di salutarci ascoltare un altro brano, vi vogliamo dire una piccola curiosità che riguarda invece la copertina dell'album. Sì, perché sulla copertina dell'album c'è una foto molto famosa che si chiama L'ora del bagnetto a Gaza, che tutti quanti avrete visto sicuramente, ed è una foto del 2015 scattata da Emad Nassari. In questa foto si vede Salem Saoudi, questo ragazzo trentenne, che sta facendo il bagno a sua figlia Lian e a sua nipote Shaima nella vasca da bagno, che è l'unica cosa rimasta in piedi dopo i bombardamenti di Gaza, appunto. Ecco, questa foto appunto è stata scelta per racchiudere il concetto di Tilt, che è quello che collega appunto tutte le 10 tracce che fanno parte di quest'album. A questo punto allora ascoltiamo la voce di Ginevra Di Marco che interpreta Maddalena. Vi ricordiamo, oggi vabbè presentato come disco della settimana Tilt di Pino Marino, e vi auguriamo una buona settimana. Degli amanti si conta con le ore. Lo so che non lo sai, che c'è qualcosa che non va o che non tornerà mai. Maddalena in processione ha avuto una visione. Maria, le scarpe nuove non conoscono la strada o l'indirizzo di una via. Ma io non so quando l'uomo che era mio sia diventato il suo signore da pregare. Quello che non hai capito ancora lo ha già risolto in bocca una passante di Cortina. Lassù la neve sfiora le lenzuola, ma la vita resta fuori ed è più facile, signora, guardare te. Guardare me, appesa al muro fra i miei fiori. Maddalena non ha un cuore, Maddalena non sa amare. Maria, le scarpe nuove date via per 3 monete, un passaporto in polizia. Ho venduto la mia pelle quando caddero i miei sogni e scesero le stelle. Quello che non ho capito ancora lo ha già risolto lei, una passante di Messina. Laggiù la neve è un abito da sposa, ma la mia vita resta fuori ed è più facile, signora, guardare me, guardare te, appesa al muro fra i tuoi fiori. Io per prima, come vede, non sono come lei mi crede. Non abito a Milano, non porto il nome di nessuno. Nessuno mi ha più avuta, nessuno mai mi avrà. Anche se in molti mi hanno presa e consumata in processione, e i fari spenti della loro disumana libertà. Anche se i giorni mi hanno offesa, io vi guardo senza età. Tornare a casa nella vostra discutibile realtà. E a voi rimane, sì lo so, tutta la vostra fede. A me rimane aver capito che solo amore dato è amore avuto.